se te l'ho già detto che aumenta un bel. Qui ce l'hai, cazzo, un giocattolino, un finale. Un giocattolino, ma quando da 10, da 2 watt, 3 watt, ne metti anche 40-50, è chiaro che aumenta. Adesso io ho dato il BV131 a Franco, mi sta cambiando l'integrato, hai visto? I finali non c'hanno niente. L'integrato, adesso mi cambio l'integrato, lo attacco qua al Zodiac, così uso quei 100, quei 120-130 watt, non ne uso 500, 600. No, dice perfetto, è così, a 100 vini, quello con 4 watt mi pare da 150, 170. E aumenta, 180, 190 me ne dava, anche il picchi 200 mi dava con la 48. Pisciugata, mi dà a me, pisciugata. È modificato, si è spaventato Franco quando l'ha visto. Cazzo, nuovo, nuovo, nuovo, ma dov'è? No, tu racconta e regala i noghi. So già, mi sono spaventato, io non credevo che... E quando lo dicevo che dava 200 watt, 190, non ci credeva nessuno. Ma BV 131, se tu lo prendi normale, dai intorno ai 110 watt, 120, non di più, più. Ma andiamo nel cuore, non l'aveva modificata Roberto, mi pare, quello. Non so cosa cazzo gli abbia fatto dentro, ma c'ha una valvola diversa, no? Qua. Sì, c'ha una 811, una Z811 da 200 watt, anziché la 100 da 200 watt. Claro, quella se ne trovi una conviene buscartela, una nuova di quelle. Adesso mi Walter il prossimo mese porta su il continente TL922, perché le due valvole, le 3500 detta, costano tutte e due 700 euro, capito? Vabbè, l'amplificatore è un amplificatore da più di 1000 euro. E invece me lo porta su da Favicco, quello che fa allineare a lui, e mi fa la modifica e mi mette due valvole da 60 euro l'una, immaginati, da 60 euro l'una, quindi due valvole 120 watt che danno 2 kW. Che sciuga. Amplificatore che giù io, capito? Che l'ho preso senza amplificatore, senza valvole, 500 euro, e le valvole ridotte nel 700, allora per non spendere 700 euro le valvole, con 120 euro mi fa la modifica, cambia la modica, cambia tutto, e dà sempre 2 kW, però è modificato, se ti sei una valvola con 60 euro la compri, sono lo stesso, mi pare 811, adesso mi ricordo, 800, 865, adesso mi ricordo, ma detta la sigla, con 120 euro cambi le valvole, in quella maniera se ti si rompe una IMAC, IMAC 3500 beta ci vogliono 350 euro per comprare la luna. Allora con 120 euro è meglio si trovate in quello. Io ce lo credo, solo che a spedirlo non fa perché pesa 50 kg e allora quando Walter sale in continente lo porta da coso, da QMN, Italia sì, QMN, e me lo fa modificare come fa i suoi, capito? Lui è uno che dà 5 kW. Da carabiniere? Via. Quello fa due miliardi allucinanti, l'ho visto le fotografie, lui via. Foca! Oh! Mi sono spostato di 2 metri, sì, 9 più 30 qua. E 9 più 30 sei tu. Qui, voilà, qui, sei Tarani e là c'è un altro movimento. Ma già lo conosco quel posto, se vai dietro dove sono i carrelli non piglia più nulla, non prende più niente, invece già ne ce l'hai di fianco, davanti, e quindi lo prendi, io sono dietro e sei coperto. Vabbè, sì, già quello lì, ma è micidiale, vabbè, dai. Abbiamo deciso di fare qualcosa, intanto su esempio comparendo il radio e le antenne sono sempre ferme lì. Adesso sistemiamo tutte le antenne e poi... aspetta. E vedi già, così c'è bello quando ce la fa bene, non venisci nessuno in occhi e ti non sui occhi. Poi non posso fare adesso se l'ascolto. Io faccio l'ascolto. Ma non è la stessa cosa, allora. Non è la stessa cosa già parlare o l'ascolto. Ma Dio mi piace anche ascoltare, vabbè, tanto che ti prenderà poco, ma è tu, quindi scendi qualcuno che conosci, ti fai un'altra salutare, non lo puoi fare. Purtroppo noi abbiamo dei limiti e li rispettiamo. Io con tutta franchezza ascolto e mi limito a ascoltare. Positivo, Gianni, io sono arrivato, mi sto parcheggiando, ci sentiamo, ti saluto, vai, che devo scendere dalla vettura, senta a Claudio, saluta a tutti quelli che ti scrivono ascolto, vai, che scendo, buona serata a tutti. Allora, buona continuazione, a te famiglia, ciao ciao, avanti, ciao. Arrivo. Ma ci vediamo, ti saluta. Nuvoloso, ma di confica sud-est.